e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, nonostante il viaggio della speranza che ho fatto ieri pomeriggio, quelle 6-7 ore di macchina, così tanto per gradire, con il rientro tra Rimini e Bologna. Esatto, sono sopravvissuta, sono qua, esatto. Ho smaltito con le calorie del nervosismo tutte quelle che avevo ingerito nei 3 giorni precedenti. Per cui eccoci qua, ripartiamo. Ripartiamo alla grande subito con un messaggio che arriva su WhatsApp. Brava. Buongiorno Deborah, il mio 730 non è ancora disponibile online, neanche quello di mio marito e mio figlio. Mannaggia, allora sapete che faccio? Domani bella puntatona tutta dedicata a voi, alla precompilata. Parte oggi questa grande operazione naturalmente fiscale, da oggi dovrebbero essere disponibili già, però insomma magari c'è qualche ritardo, qualche intasamento, saranno adesso tutti lì a controllare, quindi un po' di pazienza all'ascoltatore, ma domani ci arriviamo. Oggi invece parlo di costi dei conti correnti e delle pratiche non sempre tanto simpatiche da parte delle banche di aumentare i canoni a nostra insaputa per tante ragioni. Anche nella seconda parte facciamo i conti, li facciamo con la nostra pancia. In questi giorni è stata chiamata un super lavoro. Come sta? Chiamateci 800 24 00 24 perché torna da noi a grande richiesta il professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore all'Alma Mater di Bologna, con cui parleremo di pancia gonfia, di reflusso, di helicobacter e più chi più ne ha più ne metta. Ci scrive un ascoltatore, ma prendere il treno no, Deborah? Allora, io lo è prendo un po' scomodino per Deborah. Poi ci sono anche tante ragioni personali per l'auto è necessaria. Comunque, grazie del suggerimento. Certamente, quindi già a me era partito l'embolo. Grazie del suggerimento. L'ho preso un sacco di volte. Questo weekend lungo mi serviva l'auto. Adesso direi che mettiamoci al volante della puntata. Va, partiamo. Allora, la borsa un po' nervosa stamattina, intanto Nicoletta parto con questo, sai che nel weekend c'è un appuntamento politico importante, ci sono le elezioni francesi, tra l'altro domani volevo fare anche un piccolo focus sulla borsa francese, sul listino, sul CAC 40, perché è composto peraltro da tante aziende che ci piacciono, quelle della moda, grandi banche, grandi case automobilistiche, quindi andiamo un po' a mettere il naso anche lì in territorio transalpino per vedere un po' il mercato finanziario, come si sta preparando a questo appuntamento politico molto importante. In un momento in cui la variabile politica è determinante anche con i suoi impatti sull'andamento dei mercati finanziari. Oggi abbiamo un quadro negativo, Milano è negativa per lo 0,7% sul FTSE MIB, la peggior piazza è proprio Parigi, meno 0,86%, Francoforte meno 0,32%, anzi la peggiore Londra, sta perdendo un punto. I migliori titoli di Milano stamattina, Unicredit e Terna guadagnano lo 0,8%, Banca Mediolanum più 0,5%, Salvatore Ferragamo più 0,43%, i peggiori Tenaris meno 2,88, oltre 2 punti di calo per STM, CNH Industrial, Mediaset e Buzzi Unicem. L'euro è a 1,0650 sul dollaro. È una settimana fitta di impegni finanziari, dagli Stati Uniti arrivano tante indicazioni, anche stasera ci sono molte statistiche sull'andamento del mercato immobiliare, mentre a Washington si tiene la conferenza stampa del Fondo Monetario Internazionale che presenta il World Economic Outlook e quindi le prospettive di crescita dell'economia, come andranno le cose prossimamente. Per quello che riguarda invece il tema di stamattina, andrei subito ad anticiparlo ai nostri ascoltatori. Vedo che sono già pronti i nostri Davvero? Amici. Sì, hanno già avuto modo di controllare l'ultimo estratto conto e notare la bella sorpresa della quale abbiamo tanto parlato negli ultimi mesi. Allora, due gli argomenti di stamattina con la quale riapriamo la settimana e praticamente l'uovo di Pasqua ci va per traverso, se non avessimo finito di digerirlo, eccolo che rimane già lì. Vedi, ma noi abbiamo chiamato anche Dino Vaira. Bravissima, quindi tutto infatti, qua, infatti barbe in realtà, capelli. Questo è un legame che avrei voluto fare dopo, a parte di denari conclusa per farti il legame, ma lo faccio già subito. Allora me lo rimangio. Esatto. A proposito di digestione. Un po' di reflusso. Allora, costi dei conti correnti. La Banca d'Italia, come ha raccontato ai microfoni di Radio 24 Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio appunto di Via Nazionale, che adesso vi riproponiamo in quel breve intervento che ci ha rilasciato proprio la settimana scorsa in occasione della prima giornata del Salone del Risparmio, è intervenuta appunto di recente con una nota che è stata diffusa pubblicamente il 28 marzo, nella quale ha fornito alcune raccomandazioni agli istituti di credito italiani sul tema del cosiddetto ius variandi, cioè le norme che regolano la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali applicate da una banca alla sua clientela. A costituire quelli che Banca d'Italia ha definito comportamenti scorretti sarebbero stati gli aumenti dei costi dei conti correnti, che sono in corso da mesi e sono stati giustificati dalle banche dal fatto che queste stessero finanziando, alimentando il fondo interbancario di tutela dei depositi, tenuto a far fronte alle diverse crisi bancarie che si sono susseguite negli ultimi tempi, dalla fine del 2015 in particolar modo. Ricordiamo il caso più clamoroso di tutti, le quattro banche risolte: Etruria, Marche, Ferrara e Chieti. E questo è un primo tema che fra un po' commentiamo. Ce n'è poi un altro sul quale i giornali si sono divertiti di recente, e cioè tre grandi banche, BNL, Intesa San Paolo e Unicredit, sono finite sotto il faro dell'antitrust, l'autorità garante del mercato, che martedì 11 aprile, quindi ha mandato di traverso la Pasqua alle banche, ha inviato anche la Guardia di Finanza nei tre istituti di credito per una serie di ispezioni. L'ipotesi è quella di aver continuato ad applicare, senti che termine qua, e voglia a invitare Vaira in trasmissione, l'anatocismo, la contestata pratica di far pagare gli interessi sugli interessi anche dopo l'esplicito divieto che è stato introdotto dalla legge di stabilità nel 2014. Insomma, abbiamo avuto diversi temi. In questi giorni li abbiamo dovuti lasciare un po' da parte per il Salone del Risparmio, ma li abbiamo subito riacciuffati, come abbiamo riacciuffato ai nostri microfoni. Intanto Gianfranco Orsino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Gianfranco, tutto bene? Tutto bene, buongiorno a tutti. Grazie, stamattina collegato telefonicamente con noi, così come lo è l'amica Anna Vizzari dell'ufficio studi economico-giuridici di Altro Consumo, che è pure una profonda conoscitrice della materia. Benvenuta Anna e ben ritrovata, e buona post Pasqua, direi. Tutto bene? Grazie, buona post Pasqua anche a voi. Eccoci. Buongiorno. Le papille gustative hanno gradito in questi giorni il menù pasquale, tutto bene? Assolutamente, assolutamente. Poi io sono una buona forchetta, per cui sì, ho gradito. Come tu ben sai, sei in un ottimo ambiente di amiche qua. Allora, io naturalmente come sempre proviamo con Nicoletta a coinvolgere i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Come sapete, su questi temi mi siamo andati tante volte, ci ritorniamo anche stamattina alla luce di quanto ha detto Banca d'Italia proprio pochi giorni fa. Vi è mai capitato, vi è capitato di recente di accorgervi di modifiche contrattuali e di costi legati a commissioni o interessi applicati appunto dalle vostre banche? Cosa avete notato di strano dall'estratto conto? Come intendete comportarvi? Quali risposte avete ottenuto, se avete chiesto chiarimenti anche alla banca? Prima di partire con i nostri due amici, vi faccio risentire cosa ha detto al microfono di Cuore e Denari proprio una settimana fa Magda Bianco, responsabile del servizio tutela dei clienti antiriciclaggio della Banca d'Italia. Abbiamo ricevuto segnalazioni di comportamenti che erano ritenuti scorretti nei mesi passati, e nostre evidenze che poi abbiamo raccolto ci hanno indotto ad approfondire il tema. Non è che non si possano modificare le condizioni contrattuali, però siccome questo è un potere che ha già la parte più forte, cioè la banca, certo, sono dei vincoli per le banche, vincoli che sono naturalmente a tutela dei clienti. La cosa deve stare già nel contratto, deve essere comunicata al cliente due mesi prima, deve esserci un giustificato motivo. Abbiamo dato queste indicazioni agli intermediari, che a questo punto devono fare una valutazione, rifare una valutazione rispetto alle modifiche che hanno proposto a partire dal 2016, devono rivalutare tutto e nel caso considerare anche la restituzione ai clienti. Insomma, Banca d'Italia è molto chiara: nel caso in cui queste variazioni contrattuali ci fossero state ma non trasferite nella comunicazione, nelle modalità corrette alla clientela, la clientela può anche alzare la manina e dire: sai che c'è, adesso mi restituisci tutto. Gianfranco Orsino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, voi avete scritto tantissimo di questo argomento, addirittura avete cominciato a farlo dalla fine dello scorso mese di agosto, inizio di settembre, poi noi abbiamo subito acciuffato addirittura a luglio. Ecco, poi dopo le ferie, esatto, ci siamo andati anche noi di Cuore e Denari con il vostro aiuto. Che cosa ne pensi di questa moral suasion della Banca d'Italia? Allora, era il 30 luglio che segnalavamo quindi le prime banche che intervenivano, no, negli estratti conto con questi addebiti che ci sembrava, no, nella nostra segnalazione che facevamo, prive diciamo di quel giustificato motivo, no, che in genere le banche devono chiare lettere, in maniera tale da rendere, no, consapevoli i clienti dell'aumento e il motivo per cui c'è stato. Quello di contribuire alla risoluzione, diciamo, delle quattro banche risolte non ci sembrava, no? E quindi facciamo i nomi, perché così i clienti iniziano ad andare a verificare. Abbiamo UBI, che era stata la prima, poi Banco Popolare, Unicredito, di quelli che siamo sicuri che l'abbiano fatto, mentre quelli che non l'hanno fatto sono il Gruppo Intesa e Cariparma, questi sono solo alcuni, ma i più grandi, quindi che sono a noi noti. Sulla base delle segnalazioni, come Banca d'Italia, anche noi riceviamo da parte dei lettori. Eh sì, infatti. E cosa succede adesso? Banca d'Italia è intervenuta con questa ulteriore tentativo di fare moral suasion verso le banche, no? Quindi verso quelle che l'hanno adottato, questa tipologia di ricarico sulla clientela, quelli che sono stati i costi per il salvataggio delle quattro banche. Tra l'altro costi non indifferenti, perché non è che si trattava di un piccolo contributo, che ne so, di 5 euro ogni tanto, ma qualche banca aveva suonato anche parecchio, Gianfranco. Sì, facevamo il discorso prima proprio di UBI, no? Il primo che avevamo segnalato, che c'era stato un aumento da 40 a 64 euro, c'è un rincaro del 60% anno del costo di tenuta del conto corrente. Per la gestione del conto corrente, diciamo, in un anno c'era un aumento del 60%, quindi diciamo proprio noi. E quindi, insomma, cose che balzano agli occhi. Detto questo, allora, questo un po' di nuovo abbiamo ricostruito la vicenda. Adesso dobbiamo andare a sentire il traffico. Il punto è capire, ascoltando queste informazioni che stiamo dando questa mattina, ammettiamo appunto che qualche ascoltatore che si è accorto di questi ricarichi adesso voglia ritornare in banca e dire: sai che c'è, la Banca d'Italia ha detto che mi devi restituire questo denaro. Ma insomma, il gioco vale la candela, vale la pena imbarcarsi anche in questa operazione di mettersi a discutere con l'operatore di banca, e siamo poi proprio sicuri che ci restituiscano questo denaro? Ne parliamo tra poco con Anna Vizza e di Gianfranco Ursino, tra pochissimo. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. La grana, non lo sai quanto mi manca. Ma questa dove la trova? Ma la... che ne so, ma sai. Ma secondo me, io pensavo di averlo mandato in vacanza in questi giorni, invece mi si mette a cercare delle colonne sonore inedite. Se no le fa lui. Per addolcire la pillola dei temi un po' indigesti di cui parliamo. Allora, Anna Vizza, rialtro consumo. Queste banche aumentano i costi dei conti correnti, giustificando la necessità di alimentare il fondo interbancario di tutela dei depositi, che si è dovuto rimpinguare recentemente negli ultimi anni, negli ultimi due in particolar modo, per appunto salvare le banche in difficoltà, le cosiddette banche risolte. È una questione più complessa, ovviamente, e noi la dobbiamo sempre un po' banalizzare, ma il succo della faccenda è questo. Detto ciò, c'è un ascoltatore, Andrea da Modena, che scrive: sì, vabbè, allora quali sarebbero le modalità corrette che la banca deve applicare? Tanto la banca ha sempre ragione, poi quando ti dice se non ti va bene chiudi il conto, e chi lo chiude se così fan tutte? Andrea appunto solleva il problema in questi termini. Detto questo, è chiaro, con la banca, se non ci sta bene quello che ci applica come costi, possiamo chiudere, abbiamo adesso un po' più di facilità per farlo, possiamo andare da un'altra parte. Detto questo, però, ammettendo che per tutta una serie di ragioni vogliamo rimanere lì, perché siamo lì da un sacco di tempo e trasferire tutta la nostra vita bancaria è complicato, ma questo costo ci disturba un po', questo aumento. Possiamo andare già da domattina e chiedere: no, mi devi restituire perché lo ha detto la Banca d'Italia? Non è così facile. Allora, diciamo che nella nota Banca d'Italia chiede comunque agli operatori, nel caso in cui non abbiano rispettato le regole, di rimborsare i clienti. A questo punto dovrebbero farlo autonomamente, senza nessun reclamo. Ci auguriamo che sia così, però appunto in un mondo forse ideale accadrà questo. Il cliente deve quindi, a nostro avviso, attivarsi. Noi non consigliamo comunque di andare allo sportello a reclamare lì a voce, piuttosto di farsi sentire per iscritto, quindi di fare un reclamo formale all'ufficio clienti della banca e di aspettare una risposta, che deve arrivare entro 30 giorni dal reclamo. Noi pensiamo che comunque questa nota di Banca d'Italia nei confronti degli operatori abbia un peso e quindi l'arrivo di un reclamo da questo punto di vista può essere sicuramente uno stimolo per incentivare il rimborso, anche perché la banca dovrebbe altrimenti giustificare per iscritto il perché non fare rimborso, e quindi a quel punto anche Banca d'Italia nelle sue procedure di controllo dovrà appunto accertare che cosa è avvenuto. Però Anna, la banca deve, anzi il cliente deve dimostrare che la banca non ha fatto lo ius variandi, come dicevamo prima, secondo le modalità corrette. Se lo avesse fatto secondo le modalità corrette, il cliente non si è tutelato per tempo, in realtà quel costo deve sostenerlo. Quindi qual è la famosa modalità corretta? In che modo la banca non deve essere stata corretta nel comportamento in modo tale che lo si possa andare a contestare? Allora, innanzitutto la banca deve inviare una comunicazione personale al cliente con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla modifica. E devo dire che questo nel corso del 2016 è avvenuto. La cosa più importante su cui anche fa luce la nota di Banca d'Italia è che purtroppo questi aumenti non sono giustificati in maniera adeguata e congrua. Noi per esempio avevamo segnalato il caso di Banco Popolare, che l'attuale Banco BPM, che a fine 2016 sostanzialmente ha addebitato a tutti i correntisti in maniera indiscriminata una tantum, una spesa per liquidazione di fine anno di 25 euro. Ecco, quello è un caso eclatante di giustificato motivo che manca, perché sostanzialmente sono stati scaricati sui clienti i contributi che la banca ha pagato al Fondo Nazionale di Risoluzione, che però sono dei contributi legati alla sua normale attività bancaria, che quindi non sono da scaricare al cliente, che avrebbe dovuto coprire in altro modo, magari intervenendo su altri costi di gestione. Quindi sicuramente questa nota in quel caso può essere sicuramente risolutiva, e quindi noi infatti ci stiamo già attrezzando per mettere sul nostro sito altoconsumo.it una lettera di reclamo da inviare alla banca per chiedere il rimborso di quel denaro. Però insomma, la prima cosa da fare è magari andare a vedere la voce sotto la quale cade questo aumento e come la banca lo giustifica. Assolutamente, devo dire che ci sono anche altre banche che stanno comunicando in questi giorni degli aumenti proprio di circa 25 euro che verranno a essere operativi a metà anno, quindi il 30 giugno. A quel punto siamo proprio sempre giustificati con i contributi al Fondo Nazionale di Risoluzione, siamo anche in questo caso è un caso eclatante appunto di giustificato motivo che manca, quindi in questo caso si tratta di modifiche che dovrebbero essere inefficaci. Qui Banca d'Italia dovrebbe intervenire prima che l'addebito sia operativo. Addirittura. Quindi, Gianfranco, senti che ne hai di cose da scrivere prossimamente, no? Sapevi anche di questa novità in arrivo, un'altra raffica di aumenti da parte appunto delle banche senza motivi particolarmente forti. Detto questo, poi la banca, quello che dico io, può indubbiamente fare quello che vuole, stiamo parlando di aziende. Il tema è capire come il cliente possa gestire queste situazioni più che subirle improvvisamente, no? Gianfranco? Infatti quando ascoltavo prima il messaggio dell'ascoltatore, veniva subito ad intervenire per dire che non è così, che la banca non può fare quello che vuole, ma siamo noi che gli consentiamo di farlo, in quanto, come dicevi tu Debora, oramai è facile, no? Con semplicità cambiare conto senza... ed è la prima, diciamo, leva che noi dobbiamo portare allo sportello quando andiamo naturalmente a confrontarci. Detto questo, magari uno 25 euro di aumento è servito in maniera assolutamente ineccepibile, può anche accettare di pagarle perché ritiene di avere in cambio dei servizi adeguati, no? Gianfranco, cioè nessuno mette in discussione, la banca può anche caricarti di costi dei conti di 5.000 euro se vuoi, il tema è che però tu ti possa difendere, che te lo dica per tempo e che se vuoi te ne possa andare in maniera abbastanza semplice e non contrastata e conflittuale con la banca. Gianfranco Ursino. Sicuramente, diciamo, soprattutto sul conto corrente, che è un contratto di lunga durata, le condizioni non è che possono rimanere in eterno. Però anche lì, per modificarle, no, la banca, come diceva anche nel passaggio che avete fatto ascoltare, ci devono essere tre condizioni, fra quali quelli del giustificato motivo. Devono motivarti, che ne so, che l'aumento delle tariffe postali fa sì che mi aumenta la comunicazione l'invio dell'estratto conto. Allora lì c'è un giustificato motivo che mi permette di ritoccare al rialzo le commissioni. Ma in questo caso, visto che la partecipazione al fondo interbancario da parte delle banche non è una novità, ma rientra nella loro attività, quindi a questo punto non c'è una motivazione da potervi riscaricare, diciamo, sul cliente questi costi con la motivazione addotta. C'è un altro ascoltatore che ci ha scritto su WhatsApp: a me hanno restituito i 25 euro, ma poi me li hanno praticamente usciti dalla porta, sono rientrati dalla finestra ricaricati su altri servizi. Detto questo, ti leggo anche un messaggio di un altro ascoltatore che ci scrive: siccome ho un fido aperto considerevole, mi conviene protestare o devo stare zitto temendo la rappresaglia di chiusura fido? Beh, no, Anna Vizzari, la rappresaglia però, no, qua allora dunque la rappresaglia sicuramente è un comportamento scorretto da parte della banca, è pur vero che in questi casi il correntista è un po' più debole che in altre situazioni. Però è vero che se dovesse accadere, sicuramente un comportamento scorretto non giustificato da parte della banca. Reclamare un diritto del cliente, ricordiamo anche che per tutti coloro che stanno ricevendo in questi giorni le lettere di aumento da parte delle banche, ricordiamo che nei 2 mesi prima della modifica il cliente può recedere dal contratto senza spese alle vecchie condizioni, ciò significa che la modifica comunicata per loro non è assolutamente valida. Cioè, fammi capire, allora, se io ricevo, in questo periodo si riceve l'estratto conto del primo trimestre dell'anno, ammettendo che gli aumenti non ci siano stati nel 2016, ma si parte in questo primo trimestre del 2017, la banca non me l'ha comunicato preventivamente, ma io lo vedo adesso dall'estratto conto, posso intervenire adesso sollevando la questione con la banca? Certo, se non l'ha comunicato preventivamente in maniera adeguata, come diciamo prima, con 2 mesi di anticipo rispetto alla modifica, si può assolutamente reclamare il fatto che la modifica non è efficace. Quindi nel caso in cui l'avesse fatto per il primo trimestre del 2017, noi avremmo dovuto saperlo almeno entro novembre dell'anno scorso. Esatto, esatto, corretto. Quindi a quel punto si può reclamare, ma io stavo anche dicendo che in questi giorni sappiamo che alcune grosse banche stanno inviando delle lettere con delle modifiche che hanno proprio degli aumenti consistenti, tipo i 25 euro di Banco Popolare di fine anno. E in questo caso il cliente in questo periodo può recedere senza vedersi applicare i 25 euro al momento della chiusura. Fermiamoci un attimo, c'è il giornale radio, ci ritorniamo dopo anche con l'altra questione aperta, quella dell'intervento dell'antitrust sulle pratiche anatocistiche. Tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Cuore e denari. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Il problema è proprio questo, di chi sta un po' lì piazzato con la propria banca da un sacco di tempo e magari anche un trattamento non pienamente soddisfacente, però insomma vince la pigrizia e non ci si sposta, e questo è uno dei tanti come dire, argomenti di conversazione che spesso intratteniamo con i nostri ospiti. Questa mattina sono tornati a trovarci Gianfranco Ursino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Danna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo. Due temi, uno affrontato, l'abbiamo quasi terminato, adesso ne affrontiamo un altro: l'aumento dei costi dei conti correnti che sono stati giustificati dalle banche italiane, da qualcuna in particolare, dal fatto che dovessero essere finanziati, alimentato il fondo di risoluzione bancaria, quel fondo al quale si è attinto per salvare le banche in difficoltà. E sono state delle belle mazzate per molti correntisti, perché parliamo addirittura anche di aumenti dell'ordine del 50-60% delle commissioni annuali appunto pagate. E poi c'è questo aumento secco che viene appunto lo stesso attribuito da molte banche, molti correntisti, di 25 euro, probabilmente ne arriveranno altri, come ci anticipava Anna Vizzari. Allora, se la banca comunica correttamente questi aumenti, non è che li dobbiamo sostenere e sopportare per forza, si può sempre andare anche a discutere con la banca per capire meglio le motivazioni e magari rinegoziare e fare un po' di marcia indietro, però si può fare anche un reclamo invece formale se le pratiche di comunicazione di queste variazioni contrattuali non sono state eseguite correttamente. E questo è un po' il punto della prima questione. L'altro invece, Gianfranco Ursino, l'anatocismo. L'antitrust ha aperto di nuovo un'indagine a carico dei 3 maggiori istituti di credito italiani addirittura pure mandato la Guardia di Finanza, perché ancora una volta sul tema dell'applicazione dei interessi sugli interessi le banche non mettono a posto la situazione, come già chiesto dalla legge di stabilità addirittura 3 anni fa. Ci puoi fare un riepilogo della situazione? Velocemente, sì. Allora, questo è un problema annoso come quello che dicevamo prima, no, delle modifiche delle condizioni contrattuali. Anche in questo caso, naturalmente, ci sono stati diversi interventi legislativi nel corso degli anni che hanno fatto dei ritocchi ogni volta, ma senza mettere la parola fine. L'ultimo che c'era stato era proprio la legge di stabilità, no, del 2014, quindi di fine 2013, dove si diceva che le banche non possono più applicare quindi il cosiddetto anatocismo bancario, cioè il calcolo di interessi su interessi, cioè gli interessi che vi maturano ogni anno, che vengono quindi addebitati sul conto corrente, alla fine vi vanno a generare negli anni successivi ulteriori interessi, no, per dirla semplicemente. Questo non si può fare. Questo a fine 2013. Naturalmente alcune banche hanno continuato a farlo perché dicevano, finché non c'è la delibera del CICR, Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, che doveva mettere un po' i puntini sulle i, no, precisare tutte quante le cose, io continuo a farlo perché, come è scritta la norma, serve la delibera del CICR. Quindi alcune banche sono andate avanti. E queste quindi banche, diciamo, adesso, loro sono in regola teoricamente in via formale? No, nel senso che adesso, questo non lo sappiamo, nel senso che alcuni l'hanno fatto, no, ritenendo che bisognava attendere questa delibera del CICR, altri invece nell'interpretazione delle maglie, diciamo, della legge invece hanno riconosciuto che era subito entrata in vigore e quindi non l'hanno più attuata fin da subito, come dicevano molte associazioni dei consumatori e come adesso anche l'antitrust va a dire, perché l'antitrust adesso interviene, no? E la prima cosa che tira l'orecchio a queste tre banche, no, BNL, Intesa San Paolo e Unicredito, comunque fa i nomi in questo caso soltanto con l'avvio delle indagini, mentre Banca d'Italia, abbiamo detto, ha fatto quella cosa. No, è stata molto più, sì, certo, nei toni. Anche nel 2014, su quell'aspetto lì delle modifiche della condizione contrattuale, nel 2012. Quindi, tornando un attimino su quell'aspetto lì, volevamo dire, fate il reclamo per iscritto, perché naturalmente la remuneration la Banca d'Italia la fa. Il discorso è che poi le banche difficilmente vi verranno incontro istituendo in automatico i soldi, no? Quindi cercate di fare questa lettera raccomandata che vi saranno restituiti quei soldi. Tornando invece all'anatocismo, cosa è più difficile? La prima cosa quindi era questo aspetto qui, no? Della delibera del CICR. La delibera del CICR che è arrivata poi, no? È arrivata il 3 agosto. Il 3 agosto ha messo un po' in chiaro questa fattispecie, però mantenendo un po' linearmente quello che era previsto dalla legge che aboliva l'anatocismo tout court, dice che l'anatocismo può essere applicato se ha il consenso da parte del cliente, consenso che però non deve essere fatto in automatico con la comunicazione, quindi con il decorso dei 60 giorni di tempo, quindi quello che dicevamo prima. Perché con se no chi darebbe il consenso? Ma devi avere, per poterlo continuare ad applicare, devi avere la firma, no, del cliente. Quindi già nell'ottobre scorso, quando è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale questa delibera del CICR, anche lì ti racconto brevissimamente una piccola annotazione, quando è stata pubblicata, no, la delibera del CICR, era con un numero, un comma della legge diverso rispetto a quello che era stata inizialmente approvata, in quanto il comma faceva riferimento, no, la modifica del comma faceva riferimento al fatto che, secondo quanto era stato deliberato dal CICR, era sufficiente comunicarlo. No? Vabbè, detto questo, quindi un aspetto che ha generato, immagino, ulteriore confusione nel rapporto fra banca e cliente. Sì, ma guarda, cioè, avevano fatto in modo, no? Nel senso, qui bisogna stare attenti sempre nelle pieghe delle leggi, con quel rimando normativo c'era la possibilità della banca di comunicarlo al cliente, come abbiamo detto prima, entro 60 giorni, quindi c'era la modifica unilaterale del contratto. Invece, nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopo un mese, no, quindi una volta approvato, dopo una volta poi pubblicato, era diverso e c'era effettivamente quindi questo rimando a un'altra norma, ecco, che ha fatto sì che devono chiedere questa firma. Gianfranco, banche, tardissimo, quindi ad oggi la situazione qual è? Qual è la norma di riferimento? Le banche che sono state che devono chiedere la firma. Le banche l'hanno fatto questa richiesta della firma, l'hanno fatta e adesso anche mi risulta aggressiva. Esatto, ricorrono a modalità un po' così troppo persuasive per convincere i clienti ad autorizzare l'addebito. Anna Vizzari, arriva a casa l'estratto conto, oltre agli aumenti di cui parlavamo prima, prima, dobbiamo adesso sollevare l'attenzione anche su questa applicazione degli interessi sugli interessi, nel caso in cui il nostro conto fosse un po' in rosso, o in quali altri casi insomma l'anatocismo si può manifestare, e se la banca continua ad applicarlo, come ce ne accorgiamo dall'estratto conto? Ok, allora dall'estratto conto diciamo che dal 1 ottobre 2016 è in vigore una nuova normativa per cui è specificato che per i conti correnti il calcolo degli interessi attivi e passivi avviene in unica soluzione il 31 dicembre di ogni anno, quindi in realtà la situazione è molto semplice, nel corso dell'anno anche se riceviamo degli estratti conto trimestrali l'interesse non deve essere evidenziato, deve essere calcolato unicamente a fine anno, il 31 dicembre. Quindi questo è abbastanza semplice da verificare. Poi abbiamo tempo, se abbiamo degli interessi passivi, fino al 1 marzo per poter pagare questi interessi passivi. Cos'è successo? E cosa evidenzia l'antitrust? Che queste tre banche hanno attuato dei comportamenti aggressivi nei confronti dei clienti perché hanno inviato loro delle comunicazioni senza spiegare bene il fatto che l'addebito sul conto corrente è solo una modalità per pagare questi interessi passivi. In realtà il cliente dovrebbe essere avvertito dalla banca ed ha tempo fino al 1 marzo per poter pagare con un bonifico, con addirittura in contanti allo sportello, con un assegno, cioè in altro modo non c'è bisogno di avere un addebito sul conto corrente, quindi questo antitrust contesta le tre banche, il fatto di non aver spiegato bene questa possibilità, quindi è abbastanza semplice adesso sull'estratto conto verificare l'anatocismo. Per il passato invece la situazione è un po' più difficile perché dovremo sostanzialmente verificare se l'interesse è stato calcolato in maniera semplice oppure invece capitalizzata, e quindi c'è bisogno di un'analisi dei documenti, di un esperto. Noi consigliamo ai nostri soci ad esempio di contattarci sul nostro sito altoconsumo.it, ci sono i numeri di telefono della nostra consulenza economica, per poter avere appunto una consulenza personalizzata, perché altrimenti è molto difficile poter verificare assolutamente la presenza. Però insomma, se abbiamo così il dubbio che ci sia stato applicato e che abbiamo pagato anche delle cifre che non dovevamo corrispondere appunto alla banca, perché no fare un piccolo controllo, anche in questo caso abbattiamo la pigrizia e difendiamo i nostri interessi, i nostri diritti. Allora, noi abbiamo terminato questa parte, insomma abbiamo rifatto un punto della situazione su due vicende, soprattutto questa seconda abbastanza complicate, ma sappiamo soprattutto quanto costi questa pratica di applicazione degli interessi sugli interessi soprattutto alle imprese, no Anna, magari in 30 secondi, che devono lavorare di fidi e di scoperti di conto in maniera molto molto diffusa, per cui ecco soprattutto magari a questi profili suggeriamo di andare a controllare bene. Verificare l'antitrust farà luce anche per loro, perché comunque le pratiche che riguardano consumatori e imprese, quindi avremo delle soluzioni anche per loro. Prego. Grazie ad Anna Vizzari, a Gianfranco Ursino, occhio all'estratto conto, dopo Pasqua arriva quello del 31 marzo, fateci sapere un po' come vanno le cose e qua, dopodiché quando vi viene un po' di acidità potete continuare a sentire Cuore Denari, acidità di stomaco per queste cattive notizie. È vero, e non siamo solo, pronti, perché tu hai parlato di condizioni e di situazioni che non ci vanno giù, che digeriamo a fatica, e allora noi oggi parliamo di pancia, partendo dalle cose non solo che non ci vanno giù, ma di quelle che tornano su, perché a grande richiesta, torniamo a parlare di malattia da reflusso gastroesofageo, il nome la dice lunga sui sintomi di questa malattia che conosciamo bene per esperienza diretta o anche indiretta, dato che interessa almeno il 15% della popolazione italiana. Il reflusso fa riferimento ad un ritorno, in questo caso è una risalita del cibo, mentre l'aggettivo gastroesofageo indica bene il punto in cui si localizza questo disturbo. Il cibo infatti torna su dallo stomaco, risale fino all'esofago. Allora uno potrebbe dire semplice, no? Invece la situazione è molto più complessa, perché accanto ai sintomi classici, che sono acidità, lo citava Deborah, bruciore e rigurgito, ce ne sono altri che con l'esofago e con il cibo sembrano non avere nulla a che fare, per questo si chiamano atipici. Ve ne cito alcuni: dolore al torace, tosse, raucedine, dolore anche nella deglutizione, ma anche gengiviti, afte e carie. Allora ci vuole... E anche l'alito pesante, ce lo mettiamo, e come? Sono già arrivati dei messaggi. Allora qua ci vuole una persona cioè che uno sa, bravo, che uno che ha studiato, ecco, l'argomento, uno che ha studiato bene l'argomento, però, è uno bravo, come si dice, ed è tornato da noi a trovarci, proprio qua in studio, noi, tra l'altro, da Bologna in diretta. Buongiorno al professor Dino Vaira, gastroenterologo e ordinario di medicina interna all'Alma Mater di Bologna. Buongiorno, buongiorno e bentornato. Grazie, grazie dell'invito. Quanto il microfono lo facciamo andare, fortunato sarebbe utile. Sì, quanto è fortunato questo uomo. Provi un po' a parlare. Cosa, ecco, ci siamo? Sì, va bene, sì, perfetto. Ancora buongiorno. Niente, ancora buongiorno, era un test. Allora, professore, iniziamo ad occuparci del reflusso, meglio della malattia da reflusso, perché il reflusso di per sé è fisiologico. Malattia che si riacutizza nei cambi di stagione, insomma, cade proprio a fagiolo dopo Pasqua. Se fosse una persona sarebbe meteoropatica, ma soprattutto è una malattia che ha due facce. Una talmente chiara da prestarsi all'autodiagnosi. Tutti noi siamo in grado, no? Dice, qua mi torno un po' su acidità, avrò il reflusso, anche perché è ormai molto famoso. L'altra così subdola da mettere anche in difficoltà il medico. È proprio professore. Così, è proprio così. In realtà la malattia del reflusso gastroesofageo, la diagnosi la fanno i nostri medici di base, nel 50% dei casi, perché i sintomi sono così tipici da porre una diagnosi tranquillamente differenziale. Grazie. No, non avete idea di che scena si è consumata qui in studio negli ultimi 20 secondi. Faccio un po' tutto, tecnico, pulizia. La Carmelina Lauricella. La Carmela, sì. Sempre giusto, mi sembra giusto. Ed è legata realmente alla qualità di vita. Lei giustamente diceva, Nicoletta, ci sono due facce. Le due facce sono legate alla qualità di vita, cioè quando ci inficia la qualità di vita, quando tutto sommato ci lascia vivere. Questa è veramente la grossa distinzione. Allora io vorrei, se lei ci aiuta, rivolgermi a tre profili diversi. Allora io vorrei partire e vorrei parlare a chi soffre di reflusso saltuariamente, può capitare. Certo, una volta alla settimana per esempio, ed è quello tra virgolette più tenue, quello che non ci dà fastidio, che non implica che il paziente debba andare al suo medico di base, ma bastano degli accorgimenti dietetici. Poi a chi soffre spesso però con sintomi leggeri, sai, quando uno dice dai, qualcosa bisogna pure avere. Professore. Come dicono gli anglofoni, once a day, cioè una volta al giorno, ma ancora una volta il cut-off, il punto di non ritorno è la qualità di vita, cioè come noi ci rapportiamo nel nostro lavoro, con la nostra famiglia, con il nostro, con l'entourage che ci sta attorno. Nel momento in cui non ci inficia la quotidianità, vuol dire che è ancora una cosa che possiamo tollerare. E certamente vogliamo occuparci anche di chi ne soffre in modo cronico e presenta qualche complicanza, per capire se ci sono delle novità, se si può fare qualche cosa di più, di meglio. Assolutamente sì, invece quelli sono veramente pazienti. Questa è una malattia cronica, diciamo la verità, quindi una malattia benigna, non c'è da spaventarsi, però ci blocca la qualità di vita. Quindi è pur vero che non è una malattia grave, ma è una malattia che ci fa vivere male e pertanto realmente tutto quello che c'è attorno diventa veramente triste. 800 24 00 24, rientrate nel primo, nel secondo o nel terzo caso chiamateci, ma l'invito è soprattutto rivolto a chi soffre di reflusso senza saperlo. I sintomi extraesofagei a cui abbiamo accennato e di cui torneremo a parlare in modo più specifico: dolore toracico, difficoltà nella deglutizione, tosse, raucedine, afte, gengivite, carie, possono trarre in inganno. Quindi facciamo così, non sbagliamo, voi seguiteci, intanto chiamateci, abbiamo a disposizione un grande esperto, il professor Vaira, che ci aiuterà a capire, soprattutto a individuare il percorso, sì, per uscire, perché possiamo, abbiamo il diritto di stare bene. Dobbiamo, e quindi dobbiamo. Dobbiamo. Professor Vaira, ci sono delle persone più a rischio di altre, situazioni e stile di vita che favoriscono questo problema? Partiamo dall'identikit. Chi è? Quanti anni ha? Cosa ci combina il nostro uomo, o dovrei dire donna, che soffre di reflusso? Purtroppo è più donna che uomo, tanto per cambiare, perché voi siete più sensibili, mica è colpa mia se siete più sensibili. Quindi è giusto che siate più intelligenti e quindi soffrite di più. E quindi in linea di massima una donna per questo di 40... ci frequenta, vedi? Certo, vedi? Buon gustaio, l'abbiamo sempre saputo. Esatto. E la donna di 40-45 anni, leggermente sovrappeso, leggermente poco attiva per quanto riguarda l'attività fisica, quindi un filino più appesantita, c'è un aumento di pressione intraaddominale all'interno all'interno dello stomaco, la valvolina poverina viene messa sotto pressione, sto parlando del cardias, la valvola che divide l'esofago dallo stomaco, e il gioco è fatto. Voglio solo ricordare a tutti i radioascoltatori che l'esofago, questo, perdonatemi il termine non medico, il tubo che collega la bocca allo stomaco, in realtà è un canale di passaggio, per cui all'interno la mucosa, se mi è permesso la metafora, è realmente come il sederino di un neonato, cioè è assolutamente sensibilissima. Quindi uno sbuffetto di acido è veramente responsabile del dolore toracico, come giustamente le diceva lei, dell'asma, dell'alitosi. L'alitosi è una cosa terribilissima che è dovuta esattamente a questo. Anche perché spesso chi ce l'ha non se ne rende conto. E sono, infatti sono chi ci sta vicino che con molta delicatezza ci dice forse c'è qualche cosa che non va. Allora, se vi è capitato, ditecelo anche a noi all'800 24 0024. Ha parlato di questa valvolina che del cardias, che si può in qualche modo... In realtà non si chiude bene, quindi non chiude a tenuta. Io faccio sempre l'esempio della porta, della porta di casa nostra che si chiude a tenuta, oppure c'è uno spifferino d'aria, no? Quando c'è quello spifferino d'aria e manco a farlo posto uno proprio lì all'intercapedine, trac, da quello spifferino d'aria va dietro le spalle e ci abbiamo questo bel dolore alla scapola, alla scapola. E questa è la metafora reale. Quindi quello spifferino di acido che realmente ci danneggia. Questo spifferino che noi avvertiamo specie dopo l'assunzione di alcune sostanze, ad esempio i cibi grassi, la caffeina, gli agrumi, gli alcolici, certo. E anche a seguito di alcuni tipi di farmaci. Ma nella lista dei sospetti troviamo anche lui, il batterio, l'inquilino scomodo del nostro stomaco. Se è vero quello che dice assolutamente, ha detto lei, cioè, dei 15 milioni di italiani che soffrono di reflusso, abbiamo altre 25, non sono diversi, ma sono overlappati, 25 milioni di italiani che hanno questo batterio e non sanno di averlo. Questa è la seconda infezione subito dopo la carie nel mondo, oltre che in Italia. Naturalmente parleremo del batterio tra poco, ma restiamo al reflusso. Diamo subito, professor Vaira, qualche indicazione per gestire il problema nella sua forma classica. Possiamo iniziare a dire che se è occasionale le rinunce alimentari non sono proprio così necessarie? Assolutamente sì, quindi ancora una volta dobbiamo favorire la qualità di vita, quindi non a tutti i costi essere caustici, né con noi stessi né con i nostri pazienti. Cioè, se c'è qualcosa da fare bisogna farlo, ma non a tutti i costi, come dire, debilitare, passatemi il termine, la qualità di vita con una dieta ferrea. Quindi in effetti basta un pizzico, per esempio, di attività sportiva, basta un pizzico di alterare l'alimentazione e innanzitutto l'assunzione di acqua. Spesso e volentieri, nell'80% dei casi, non c'è bisogno né di farmaci e innanzitutto di dottori. E questi che... Meno abbiamo bisogno di dottori, meglio li frequentiamo. Ma no, meglio. Ma no, io ne Senta, voglio qualcuno. Allora qua andiamo all'acqua. Lei ha suggerito, sembra che insomma la cura sia semplice, come bere un bicchiere d'acqua, più bicchieri d'acqua. Direi. Esatto, perché in realtà l'acqua non fa altro che ripristinare la peristalsi, quindi è una cosa seria, è una cosa proprio meccanica, se mi passate quest'altro termine non medico, nel senso che noi abbiamo bisogno che l'esofago si crea una peristalsi verso il basso e questi goccini d'acqua fanno proprio al caso nostro, sono perfetti. Allora andiamo a Maria da Genova all'800 24 0024, che chiede un aiuto al professor Vaira, SOS Vaira. Eccoci. Buongiorno Maria, prima buongiorno dei mercati. Grazie tanto di avermi chiamata. Buongiorno professore. Buongiorno a lei Maria. Devo chiedere cortesemente questo. Io un paio d'anni fa ho avuto un problema che in quel momento lì lo riportavo, come dire, un piccolo blocco intestinale. Sono ricorsa al pronto soccorso e dopo una vista mi ha consigliato di fare una defecografia. Dopodiché dovremmo arrivare ai giorni più recenti, mi scusi, sì, perché però, sennò non ce la facciamo. Ecco, il discorso è questo: dopo questo esame che mi riscontrano una intussuscezione, io trovo che il mio addome resta sempre molto gonfio e non riesco a sgonfiarlo nonostante mi attenga a diete, nonostante insomma la situazione prima di questi due episodi non è più tornata normale, come insomma avevo quasi il buco al punto nell'addome, non avevo. E invece adesso questa pancia rimane gonfia, che fare? i mercati con le pance gonfie le sanno? Oggi sì. Vediamo se sono gonfi i mercati oppure sgonfi, sgonfi, irritati. Tutti in rosso, tutti irritati. Ritorniamo subito con il caso di Maria, ma anche per parlare di Helicobacter, l'inquilino del nostro stomaco, che può fare danni, per cui bisogna sfrattarlo, eradicarlo, come si dice in termini della terapia tutta italiana. Il professor Vaira, un batterio che conosce molto bene, poi vi racconteremo la sua storia. Intanto mercati e poi di nuovo insieme. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Molti ne soffrono, pochi se ne occupano, i più sopportano e convivono torto collo con bruciore di stomaco, rigurgito. Sono questi i sintomi classici del reflusso gastroesofageo di cui ci occupiamo oggi per farvi conoscere anche sintomi che con l'esofago e con il cibo sembrano non avere nulla a che fare, ma vogliamo parlare anche di Helicobacter, un batterio, io lo chiamo sempre il batterio del Nobel, ma dovrei chiamarlo anche un batterio killer, perché è un cancerogeno di classe prima, cioè con la pericolosità paragonabile a quella che ha il fumo per il cancro ai polmoni. Quindi è un batterio insidioso, subdolo e traumatico, perché può provocare il tumore allo stomaco. Quindi è importante individuarlo ed eradicarlo. Si può fare. Oggi ci aiuta il professor Vaira, ci siamo lasciati con Maria. Un problema molto diffuso, per Maria un pochino più ha contestualizzato il suo problema perché ha avuto dei trascorsi, ma resta quel disagio che molte persone avvertono della pancia gonfia, che è una volta una sensazione, a volte proprio bisogna allentare la cintura. Professor Vaira. Il consiglio pratico per Maria è probiotici, acqua e probiotici. Questa è l'unica maniera per sgonfiare questa pancia e per creare sollievo a quella sua patologia, da quello che ci dice lei. Acqua, ne abbiamo parlato, che va bene anche per il reflusso, è una sorta di medicina. Probiotici, quali in bifido, particolare? Bifido, latto, di solito, una commissione di bifidobatteri e lactobacilli sono in assoluto quelli migliori, specialmente sul pancino. Allora, allora Maria e tutti coloro che sentono un po' la pancia, soprattutto in questi giorni, il pancino un po' teso, che duole, che borbotta, seguite questa ricetta. Intanto tantissime le chiamate, intanto vogliamo ricordare che siamo in diretta Facebook. È vero. Salutiamo tutti come i nostri ci trovate amici. Il professor Vaira, voilà, eccolo qua. Emiliano dalla provincia di Roma, Francesco da Siracusa, Giuseppina da Pistoia, una che carrellata, batteria. Una batteria di domande e naturalmente vi invitiamo. Sintesi, così il professor Vaira riesce. La colomba di Pasqua ha lasciato i segni. Vedi, colomba e uovo e chi più ne ha più che ne mette. Emiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve, io avevo una domanda. La mia compagna ha perso completamente gusto e olfatto. E dopodiché, dopo una visita ad otorino, gli è stato diagnosticato il reflusso. Volevo sapere se c'era un rimedio e se poteva essere il reflusso che aveva fatto perdere. Il reflusso gastroesofageo, già il nome sembra uno scioglilingua, ecco, ma professor Vaira, non è che abbiamo tutti il reflusso, perché è un po' una malattia, mi sembra che ci fosse anche un passaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo, non vorrei sbagliarmi, sì, insomma una diagnosi di reflusso non si nega a nessuno. No, non è vero, 35 milioni di italiani non ce l'hanno, quindi vivono tranquillamente, serenamente, quindi possono non star sereni. Non c'è una sovradiagnosi. Assolutamente no. Per quanto riguarda questa domanda molto importante, perché è importante? Perché la maggioranza dei pazienti che per esempio io vedo a Sant'Orsola ci rimane all'otorino, sono pazienti che vanno in otorino perché non gli va via la voce, perché hanno la acetine e i poveri otorini gli guardano il faringe e la laringe e dicono guarda c'è solo un reflusso gastroesofageo, vada al primo piano in gastroenterologia, è quello che succede. Quindi la risposta per la fidanzata di Emiliano, assolutamente sì, può essere reflusso gastroesofageo avergli tolto sia l'olfatto sia la possibilità di parlare in maniera distinta. Però può tornare ad avere il suo olfatto e a recuperare la voce. Si recupera al 99%. Facendo una terapia abbastanza banale, ovviamente con inibitore della pompa, però non per lunghi periodi. Quindi io vedo veramente migliaia di pazienti che prendono questi inibitori come se fosse un antidiabetico, un antipertensivo. Questo è un farmaco che si prende per 6 settimane, non per 6 anni o per 60 anni. Meno medicine prendiamo e più stiamo bene. Ecco, lei mi dice 6 settimane. Noi abbiamo anche dalle mail che ci arrivano persone che raccontano che sono in cura da anni. Quello che le dicevo. Ecco, infatti, ma evidentemente quando però il farmaco lo sospendono, perché le persone continuano a prendere farmaci spendendo Il farmaco ha sempre un potere curativo, il famoso effetto placebo. Tutti gli studi più grandi del mondo sono sempre stati fatti col placebo, cioè vuol dire con acqua fresca, con vitamine. Quindi il farmaco ha sempre un effetto positivo. Invece di un farmaco attivo così potente come l'inibitore, si possono tranquillamente scegliere dei farmaci meno potenti, meno che vanno in circolo nel nostro fegato, nel nostro rene, nella nostra milza, che hanno gli stessi effetti benefici. Quindi dopo 6 settimane si sospende, si parla con il curante per cercare una terapia che non ci leghi vita natural durante. Questo è il concetto. Così come farmaci. Dobbiamo stare lontano dai medici, dobbiamo stare lontano per quanto possibile dalle medicine, dagli antibiotici benedetti. Cioè, voglio dire, se uno ha la sfortuna di nascere diabetico, per forza deve prendersi il suo farmaco, così come per l'ipertensione. Ma se uno ha la fortuna di non avere queste medicine, queste patologie, meno medicine prende, meglio è. Allora, Francesco da Siracusa, poi vado da Lia che mi chiama dottoressa Cuoricina. Ah! Carina. Francesco, buongiorno. Allora, eccomi, buongiorno. Il mio disturbo è causato più che altro dal fatto che ho difficoltà enormi a deglutire. Infatti il primo che mi ha parlato di reflusso è stato un otorino, come ben diceva infatti il dottore prima, perché ho cercato di tutto e di più, ho avuto anche paura di qualcosa di più grave, perché proprio il cibo mi risale in certi momenti in cui ho avuto il problema, e ho anche rovesciato davanti ai colleghi con i quali pranzavo, quindi è una cosa molto brutta. Però adesso sto bene solo, tornando all'ultimo discorso che avete fatto, sto bene solo quando faccio le 6 settimane del esomeprazolo, una cosa del genere. Poi dopo torno a stare male. Sono già 2 anni che faccio questa vita. Allora Francesco, stia lì perché in buona compagnia c'è anche Giuseppina da Pistoia, così diamo... Certo. Giuseppina, buongiorno, benvenuta. Si lamenti anche lei, Giuseppina. Grazie, che intanto abbiamo il professor Vaino. Buongiorno. Dunque, io ho una volta ogni tanto, di notte, mi capita questo reflusso. Addirittura mi sveglio, non riesco a respirare. Poi, mi passa, va bene, però mi resta quel forte bruciore. Cosa posso fare per eliminarlo? Allora, professore, il quadro allora, è ben Francesco descritto. Francesco deve assolutamente, sicuramente fit, come dicono gli inglesi, nel senso che sicuramente non è sovrappeso, ma deve assolutamente tenere a bada il peso. Quindi io non so qual è il peso di Francesco, ma spesso e volentieri la recrudescenza del sindrome è legato al peso. Quindi il sovrappeso non ci fa bene. Questa è una cosa fondamentale. E le abitudini alimentari sicuramente aiuteranno Francesco, e quindi dobbiamo tirare via il famoso esomeprazolo. Meno ne prendiamo, meglio è. Mentre per la signora Giuseppina questa è in assoluto la cosa più sgradevole che possa capitare, cioè ci si sveglia la notte con questo regurgito che è veramente una cosa sgradevolissima. Lì forse vale la pena andare a identificare la causa. Come dire, se succede una notte al mese ovviamente possiamo tranquillamente utilizzare dei farmaci più blandi, ma se dovesse succedere in maniera continua e costante tutte le notti, forse è il caso di andarla a indagare. Allora, andiamo dalla dottoressa Dalia, dottoressa Cuorina. Reflusso, il mattino a colazione, caffè con latte senza lattosio, mi torna tutto e mi dura un'ora, ci scrive Lia. Quindi un effetto quasi immediato. Io cambierei colazione, professor Vaino. In realtà questa colazione non mi dispiace, devo esservi proprio sincero. Cioè il latte non mi dà assolutamente fastidio, a maggior ragione poi senza lattosio. Quindi ancora una volta bisogna inquadrare la qualità di vita di queste persone. Come dire, sono sicuro che faranno un po' di attività fisica, sono sicuro che ci tengono alla dieta, sono sicuro che ci tengono al peso. Ovviamente sto... come dire, sono sarcastico quando dico questo, ma questi sono i capisaldi Cioè, ancora una volta, non ci colleghiamo al farmaco, colleghiamoci invece alla nostra capacità e abitudini alimentari e di quotidianità. Abbiamo detto che avremmo parlato anche dei sintomi, ne stiamo parlando, extraesofagei. Abbiamo Silvana da Milano che ci racconta e ce ne evidenzia uno in modo particolare. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Da un annetto o due a questa parte, il reflusso a me provoca la tosse. È terribile. Nonostante faccio delle cure per un mesetto con i soliti rabeprazolo, eccetera, dopo al massimo un mese o due mi ritorna la tosse e io vado avanti sempre con questo fastidiosissimo problema. Grazie Silvana. La tosse, allora, è un altro di quei sindromi extra, la tosse e il dolore toracico, però la tosse per esempio è veramente infelicità la vita, perché anche il dolore toracico, uno va in pronto soccorso, si fa l'ECG, si fa gli enzimi, è negativo, si mette tranquilla. La tosse invece veramente ci inficia la qualità di vita, lì va assolutamente studiato. Quindi questa tosse maledetta che ci inficia la qualità di vita merita uno studio non dal dottore ma dallo specialista per tentare di aiutare queste persone, che ovviamente sono su base individuale, non è che possiamo dare una terapia radiofonica. Però, per no, tutti. Per non possiamo dare una, naturalmente una terapia radiofonica, ma Silvana possiamo dire che il gastroenterologo è in grado, fatta una diagnosi precisa e puntuale, di costruirle una terapia su misura. Una terapia ad hoc, ecco. Assolutamente. Allora parliamo del nostro batterio, come si fa, che sintomi dà questo inquilino che va sfrattato perché è moroso, cioè. E fa danni seri. Ma che segnali ci può dare? Abbiamo cattiva detto digestione. Sicuramente il reflusso anche. Sì, anche, ma cattiva digestione, proprio come dire, questa sonnolenza postprandiale, questa nausea, questa astenia, cioè questa stanchezza, questa mal di testa, sono tutti collegati alla digestione. Cioè il nostro pancino, ne abbiamo detto più volte, è veramente importante per il nostro organismo, quindi qualunque cosa ci succede, anche in maniera emotiva, si riversa lì. Sì. E quindi può fare la campanella d'allarme, in realtà ci può aiutare. Allora, rispetto voi state lì, la pancia è quella, qualcuno l'ha definita la cassaforte della nostra salute, del nostro benessere psico-emotivo fisico, anche, certo. E fisico, naturalmente. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme col professor Vaira in diretta su Facebook. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Cuore e denari. Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. E lì è tutto ruota intorno alla pancia. Professor Vaira, noi abbiamo uno dei massimi esperti qui in diretta Facebook, arrivano anche dei messaggi che leggeremo tra poco, intanto vi ringrazio perché siete accorsi numerosi, come altro possiamo che dire. 800240024, abbiamo parlato di reflusso, sicuramente la tosse è uno dei sintomi extraesofagei. Trovate poi tutte le indicazioni del professore sulle nostre pagine, potete riascoltare la puntata, ma vogliamo occuparci anche dell'Helicobacter. Professore, lei ha raccontato tutta una serie di sintomi che possono magari farci sospettare che il nostro stomaco è abitato da questo inquilino e che va dalla digestione, sintomi come la digestione lenta, molto, un po' difficoltosa, la sonnolenza postprandiale, ma anche il mal di testa. Come faccio a capire che l'Helicobacter ha scelto me? Questo è veramente una bellissima storia, la storia di Napoleone Bonaparte che aveva la manina sulla pancina, che in realtà poi si è scoperto che aveva l'Helicobacter e non l'hanno avvelenato come dicono i malpensanti, ma in realtà purtroppo è andato via per il cancro dello stomaco per l'Helicobacter. Quindi in realtà noi questo batterio ce lo pigliamo dalle mamme quando siamo piccolini, quindi non si trasmette all'interno della coppia, quindi nessun problema possiamo per i rapporti baciarci, sessuali, sì. Nessun problema per i baci, quindi questa è la cosa fondamentale. Alito a parte. Alito a parte. L'alito, perché i messaggi sono tanti. Assolutamente, lì sì, un altro però discorso. Capisci che intanto parliamone anche di alito, perché io sono un po' in difficoltà a dire buongiorno cari amici, oggi parliamo di alito. Ha ragione, allora, ecco. Ha ragione. Quindi questa è la prima cosa, quindi ce lo pigliamo dalle mamme, non ce lo pigliamo in età adulta, quindi lo circondaggiamo da 0 a 3 anni. 1, 2, facciamo una diagnosi non invasiva, già questo meriterebbe un Nobel, cioè non dobbiamo fare quell'antipaticissimo esame che io faccio quotidianamente 10.000 volte all'anno, che è la gastroscopia, ma un esame o sulle feci o un esame sul respiro, e questi due esami o l'uno e l'altro sono accurati 99 volte su 100. E la bella notizia è che nel momento in cui sono negativi per 50 anni, quindi non abbiamo bisogno di ripetere. Questa è una notizia importantissima che noi ci portiamo a casa, come dire, e quando noi facciamo diagnosi di malattia celiaca sì o malattia celiaca no, non c'è la malattia celiaca, bene, questo è un problema che non si porrà mai più. Terza cosa, ovviamente nel momento in cui tiriamo via l'elicobatter, 99 volte su 100 la gente sta meravigliosamente meglio. Allora, e dicevo, la cura è tutta italiana. E viva l'Italia, viva Medimbo. Oh, vedi. Allora, Enrica dalla provincia di Milano. Buongiorno, Enrica. Però questa cura è italiana, ma... Enrica? Continui. Allora, io ho 60 anni. Ho scoperto attraverso una gastroscopia, perché stavo male, grazie. A 30 anni ho scoperto di avere l'Helicobacter pylori. Ho già fatto 5 cicli di eradicazioni seguendo vari protocolli. L'ultimo l'ho fatto a febbraio di quest'anno e si chiamava sequenziale. Smetto il medicinale che prendo, protettivo per lo stomaco, per un mese, sto malissimo, e poi faccio il controllo col breath test ed è sempre stato positivo. Non riesco a toglierlo. Adesso mi hanno parlato di una nuova terapia che consiste nel prendere 12 pastiglie al giorno per 10 giorni, sono 120. Il professore, che è contrario agli sono antibiotici... Sono 140 in realtà... Ecco, io stavo già male, mi sono rifiutata perché stavo malissima con l'altra cura, per cui figuriamoci con questa. Enrica, quando la cura non funziona. Enrica ha ragione, lei purtroppo ha fatto la sequenziale, che è quella famosa che abbiamo coniato noi nella meravigliosa, fantastica Università di Bologna, cara Nicoletta, cara Debola, 929 anni, siamo a 929 e ci sarà ancora per altri prossimi 500. L'università è non l'elicobacter. Questa è l'università. L'elicobacter è stata famosa. Quindi in realtà, adesso parliamo seriamente, il problema è fare questa sequenziale in prima battuta. Nel momento in cui, come nel caso della nostra amica, purtroppo ha già fatto altre terapie, l'unica possibilità è fare l'antibiogramma, cioè creare una cura su misura per la nostra amica. E questa, sinceramente, siamo in pochissimi in grado di farlo in Italia. Oltre a Bologna penso che siano veramente pochissimi centri. Ma perché è complicato, non perché siamo bravi noi, ma perché è veramente complicato fare questo tipo di esame. Allora, c'è una signora, una moglie che ci scrive: mio marito ha un alito indescrivibile, prende una pastiglia mezz'ora di prima di pranzo e cena, ma nulla cambia. Bisogna vedere che pastiglia prende, magari. Allora, intanto di topo, intanto sì, estratto di topo. Intanto ci sono, ma perché mi fai pensare all'estratto di topo? Allora, Daniele Vinicio su Facebook commentano la nostra diretta e ci chiedono quali sono i probiotici da prendere. In effetti lei l'ha detto un po' veloce. Sono i lattobacilli e i bifidobatteri, sono questi due capostipiti. Ovviamente ce ne sono migliaia, ma in linea di massima questi due ceppi sono quelli che funzionano di più. Ma mi dica bene per quanto tempo, quando li prendo, al mattino, alla sera? Tagli nelle informazioni preziose, è duro. Ci però fa lavorare, perché sa che lo amano. Allora si prendono al mattino, prima di colazione, per 4 settimane. Questa è in linea di massima. E poi si ripetono i cicli proprio ai cambi di stagione. Quindi cadiamo a fagiolo, perfetto. A probiotico. Esatto, perché dire. Fagiolo non vorrei facesse allora, male. Tutte le volte ancora Gabriele, sempre da Facebook, vuole chiedere. Ne abbiamo parlato anche con una sua collega che lei conosce bene, Beatrice Salvioli, che lavora sia a Bologna che a Humanitas. Di questo benedetto kefir può fare bene o peggiora l'acidità? Grazie e complimenti. Allora, le anticipo già che, no, tanto per regolarsi, che la dottoressa Salvioli il kefir ce l'ha approvato. Bene, allora la provo anch'io. Conflitto. Lei che dice? Indifferente. Non fa male, ma a parte gli scherzi, non fa male. Quindi non mi dà fastidio, a parte gli scherzi. A lui. A lui non dà fastidio. Certo. Culturalmente, ovviamente. Allora, il professore, quando lei ha detto non si possono prendere farmaci per tutta la vita, ma la cura va limitata a 6 mesi e poi ne parliamo con il medico curante. Sono arrivati tantissimi messaggi. Se smetto la cura io sto male e quindi che fare? È così, per l'amor di Dio. Questo farmaco, l'inibitore della pompa, è un farmaco che funziona. È un po' la vecchia storia dell'ulcera, cara Nicoletta, cara Deborah. Quando eravamo un pochino più giovani esisteva l'ulcera e si prendeva la nitidina e la si prendeva per 30 anni. Adesso, ringraziando il cielo, è venuto l'ericomat e l'ulcera non più. Quindi per il malattia del flusso gas esofageo l'inibitore funziona, lo ribadisco, ma dobbiamo assolutamente andare alle cause, e le cause al 90% è l'aumento di peso, è l'aumento, le cattive abitudini alimentari e il tantissimo stress. Quindi non è il farmaco che ci risolve il problema, il farmaco ci tampona il sintomo ma non ce lo risolve. Allora Martin dalla provincia di Firenze, rapidamente perché abbiamo un paio di minuti, benvenuto e buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, io dopo una mangiata eccessiva che ho avuto 4 mesi fa sono stato al pronto soccorso perché avevo giramenti di capo e difficoltà respiratorie. Dopo mesi che ho preso pantoprazolo, questi qui, io non stavo ancora bene e mi hanno, dopo una gastroscopia, ho visto che ho un'ernia iatale con reflusso. Continuo ad avere tutti questi sintomi dopo che assumo tutto questo e non trovo benefici, ho difficoltà respiratorie, alcune volte sento orecchie tappate. Insomma, un quadro complesso. Gola, mal di gola, sì, volevo sapere se c'era verso, non lo so, qualche risposta, non lo so. Allora, l'ernia iatale non è il flagello di Dio. Tutti i miei pazienti vengono da me dicendo c'ho l'ernia iatale pensando di avere un brutto male. No, è una patologia benigna, non è altro che una risalita del fondo gastrico sopra l'esofago ed è una patologia tra virgolette che noi riusciamo a risolvere 95 volte su 100. Quindi questo è il concetto fondamentale. L'inibitore della pompa, lo ribadisco, funziona. Purtroppo ovviamente in radio non riusciamo a essere più precisi di così, ma ancora una volta bisognerebbe andare a vedere quanto pesa questo signore, che abitudini di vita ha, quanto si muove, quanto beve e questo abuso alimentare se è veramente una tantum oppure in realtà è quotidiano. Non ci avete detto, ci scrive, ha ragione, torneremo a fare una puntata tutta sull'alito, se l'Helicobacter può essere responsabile della litosi. La risposta è assolutamente sì, perché questo si alberga all'interno dello stomaco, distrugge le ghiandole, le famose ghiandole che ci producono l'acido cloridrico, che ci serve in maniera infernale, mi passi questo termine, per spezzettare i tortellini che mangiamo a Bologna e gli gnocchi che mangiate qui. Va bene, allora professor Vaira, grazie, torni grazie presto. Ma quante telefonate hai non ricevuto? Non posso dire, guarda, quanti messaggi. C'hanno anche tutti l'Helicobacter, invece tutta la cioccolata degli giorni passati volevano la sua giustificazione. Bravissima Deborah, bravissima. Allora, noi torniamo domani? Sì, assolutamente sì. Ah, io no, non torno. Non torni? No. Va bene, mi prenderò cura e della parte di giovedì. E poi tu non ci sarai giovedì, ci alterniamo, questa settimana è così. È un po' così, un po' variabile, dai, così, ma faremo delle belle cose lo stesso come sempre. Grazie a tutti. Buona giornata. A presto. Buongiorno a tutti, grazie.